Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Pipipipi, 16:33 minuti, Nova Lab 24, la voce dell'innovazione. Oggi è giovedì, oggi c'è Cristina Tagliabue, oggi anche oggi, puntata con due argomenti che non c'entrano nulla l'uno con l'altro, come ieri, lo sapevi? No, non lo sapevo, ho seguito il tuo post sul tuo blog sui designer, ma ieri non ho sentito la puntata. Hai visto, cosa ne pensi? Ma del tuo post sul designer? Bello. Assolutamente, oh, meno male. Molto bello. È andata bene, promosso, quindi comunque oggi parleremo di donne, scienza e di tecnologia, di una casa verde intrappolata tra i palazzi, parleremo di un documentario, di un regista, ma prima le news. Rimarrà a Palazzo Reale di Milano fino a domenica l'installazione AudioScan Interactive Map, un progetto di sensibilizzazione ambientale attraverso la trasformazione di un prodotto di scarto della società tecnologica. L'esposizione è inserita nell'ambito dell'evento Pianeta Acqua, Waterways, per lo sviluppo sostenibile tra terra e mare, il 3, 4 e 5 giugno 2010. A Torino soffia vento di cinema ambiente. Fino a domenica una full immersion di pellicole green. Due i film da non perdere. No Impact Man, il film che racconta l'esperimento di Colin Bevan e della sua famiglia che per un anno decidono di vivere ad impatto zero. E The Cove, vincitore dell'Oscar 2010 come miglior documentario. Parla del pericolo di estinzione dei delfini. Stasera invece la proiezione di Google Baby, un film scioccante in cui la regista, Zippy Brand Frank, documenta il business della maternità surrogata. Sono ufficialmente aperte le votazioni online per i 10 blog social media selezionati dalla giuria del Premio Internazionale di Giornalismo Ischia, dedicato al social media. Le votazioni sono aperte fino al 25 giugno. Tra i classificati anche un progetto tutto su Facebook, la città di Asterix e il Twitter di Essential News. Quindi insomma l'abbiamo detto, la top 10 dei social media, per cui ci sono dentro sia blog che social network, che insomma spazi dove le persone dicono cose, dico bene? Sì, perché ormai i migliori competitor dei giornalisti sono le persone normali, quindi... Sì, però Steve Jobs ha detto ieri... Cosa? Ha detto che il mondo non diventi una nazione di blogger, sia i giornali. E allora noi cosa dobbiamo fare? Niente, zitti, noi buoni, buoni. No, ubbidire mai, ubbidire mai. Comunque, no, facciamo... però, scusami Luca, volevo così spiegare questo premio Ischia, che è un premio molto ufficiale, internazionale, eccetera, e che invece dallo scorso anno ha aperto una sezione social media, perché è una sezione che va votata dagli utenti, quindi da tutti noi, da tutte le persone che navigano su internet e hanno voglia di fare con un click, no, declinare una preferenza, spiegare perché... Quella news, che è poi è stata premiata e indicata dai capi redattori dei principali siti internet dei quotidiani italiani, perché quelle news erano più importanti di altre, perché votare quel blogger oppure no. Infatti qui abbiamo indicato per esempio anche un progetto su Facebook che è candidato, che è la città di Asterix, ovvero una ragazza che ha trovato su un pullman due ragazzi iracheni, li ha presi per mano e da due anni li ha accompagnati a Roma nella sua vita, così insomma in un'avventura che è l'avventura di stare in Italia senza i genitori. Quindi www.premioischia.it, poi dentro troverete il modo di andare a votare la notizia del blog più interessante. Vedo 10 candidati, non diciamo più oltre, passiamo invece all'altro argomento, anzi all'ospite che è venuto addirittura a trovarci qui in studio, Gianluca Brezza, regista, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, la sua è... no, ma introducilo tu, dai. Introducilo. Insomma, abbiamo invitato questo regista perché da qualche giorno a questa parte è stato inaugurato il Festival di Cinema Ambiente, che è un appuntamento della pellicola green imperdibile, ormai da qualche anno si tiene a Torino. Solitamente si teneva ad ottobre, è stato anticipato a giugno in occasione di eventi internazionali dedicati al verde e non alle perdite di petrolio dell'America, ma insomma comunque là si possono vedere tutte le pellicole dedicate all'ambiente nel giro di pochi giorni, quindi chiude domenica. Parlando con gli organizzatori, cosa facciamo, di cosa parliamo, portiamo qui una persona sponsor BP? No, eh? non crediamo, anzi sono molto agguerriti contro tutto il mondo delle multinazionali multinazionali contro il mondo. Beh, ma io credo che loro vorranno, no, poi BP vorrà sopravvivere, per cui se sarà una battaglia anche di comunicazione in questo momento, per cui ben vengano questi, cioè il rischio è che troveremo BP che finanzierà cose del genere per cercare di ridipingersi un'immagine, non sarà impossibile, credo che sarà molto difficile. Comunque, premio dell'ambiente, noi abbiamo un regista, sentiamo subito il curriculum e poi gli facciamo un po' di domande. Gianluca Brezza fa il regista. È nato a La Spezia nel 1972. Vive e lavora a Milano. Negli ultimi anni si è specializzato nella produzione di fiction per ragazzi. È sua la regia della sitcom Life Bites, in onda su Disney Channel. In passato ha lavorato come regista nella soap opera Vivere e come aiuto regia di Alberto Ferrari nel film La Terza Stella. Ha realizzato inoltre due videoclip per i Mais Weiss e per i Kif, oltre a due spot pubblicitari per Area ADV Milano. In ambito documentaristico ha realizzato tre lavori: La vita a 11 km orari, Parallelismi e On Off, The Spinning Top. È con noi oggi per parlare del suo corto dal titolo La Casa Verde, che presenterà domani al Festival Cinema Ambiente. Allora, abbiamo già detto tutto nella scheda. Tra l'altro, la cosa molto interessante, se andate nel sito di YouTube, dove tu hai un canale YouTube, sì, puoi dare l'indirizzo. È semplicissimo, www.youtube.com/Gianluca Brezza. Ci sono moltissimi dei tuoi lavori e tra l'altro c'è anche un'immagine di questa casa completamente circondata. No, dai. La casa non ancora, non è io ancora l'ho su vista, YouTube. Come hai fatto per la vista? YouTube lo trovi su altri siti, se tu digiti su qualsiasi motore di ricerca La Casa Verde Gianluca Brezza, quella foto la trovi, perché è una foto comunque molto che colpisce anche perché sembra un po' Up, a me ha ricordato, esatto, il film della Pixar. Infatti, cioè, quando è uscito ho detto ma che bella promozione che mi farà questo film, che è una cosa che hai scoperto, nel senso, adesso sì, racconta qual è la storia. Allora, di questa, la storia, casa, di questo documentario è molto semplice, nel senso che sono andato un giorno a farmi un giro in questa zona di Milano che sta completamente cambiando. Sono andato a vedere la costruzione di questo nuovo palazzo pubblico dove sarà sede la regione Lombardia, e facendo il giro di questo enorme palazzo che in modo abbastanza pervasivo ha coperto tutti gli spazi possibili, scopro che all'interno di due ali di un palazzo, palazzi enormi, altissimi, sì, era una torre adesso di 160 metri, quando sono andato io era ancora a metà, esisteva questa casa verde, veramente una casa, anche visivamente subito dicevi ma questa cosa è incredibile, cioè una cosa che non può essere, si sono dimenticati, cioè, e ho detto sarà disabitata. Invece scopro, stando lì un po' di tempo, perché comunque la situazione era abbastanza così, che la gente entrava e usciva. Forse questo sguardo un po' curioso verso la casa mi ha portato a... Che dov'è esattamente? Perché allora, si trova un milanese via Melchiorre Gioia, c'è una traversa che si chiama via Paoli, e c'è una via in fondo che si chiama via Bellani, che è una piccolissima via. Che tra l'altro quel boschetto, quel parco lì è, sì, anche famoso perché le storie tese hanno dedicato una canzone. È diventato, grazie a te diventerà sempre di più, il simbolo di una città che sta cambiando e che forse non sta cambiando nella direzione che tutti vorrebbero. A proposito di Elio, vorrei qui ringraziarli perché mi hanno permesso di utilizzare proprio il finale di Parco Sempione, che c'è una critica che qui non starò a ripetere perché non è, forse non è, però mi hanno dato questa opportunità e diciamo il bosco era appunto dove adesso hanno costruito il palazzo. Sì, peraltro io appunto mi sono vista in anteprima questo film e devo dire che è impressionante, un bosco bellissimo raso al suolo, dopodiché i mitici grattacieli che ormai stanno ospitando Milano, e poi questa casetta verde che sembra piccola ma non è così piccola, perché i grattacieli sono enormi che la fanno sono sembrare. Sono 5 piani. È un palazzo di 5 piani però verde. Però sembra assolutamente una casetta in mezzo. E le persone che stanno lì non sono soltanto gli anziani, dice, no, sai, quelle persone che rimangono appiccicate al quartiere perché sono anche dei giovani professionisti, così, quindi abitate da persone normali, delle case molto belle, no? Quindi che hanno vissuto, che in questo momento probabilmente è il momento che se la stanno passando meglio, perché ovviamente hanno passato i 3 anni di costruzione del palazzo in cui lavoravano 24 ore su 24, immaginatevi fondamenta di 12 metri, perché per costruire un palazzo così grande, rumori. Mentre sono stato a girare era l'anno scorso, più o meno febbraio-marzo, il periodo delle riprese, e c'era un rumore, una polvere incredibile. Mi sono immaginato nel momento delle fondamenta cosa deve essere stato. Per cui per loro a quel punto il fatto che il palazzo fosse quasi terminato era un sollievo. Certo, lì bisognerà capire come andrà a finire, perché che sloggeranno, non sloggeranno, resteranno lì, magari diventa la Casa Verde 2 o quando c'era una Casa Verde. Guarda, o quella vecchia Casa Verde, non lo so, suggerisco titoli. Ogni tanto i signori, insomma, le persone che mi hanno lasciato un'intervista li sento, perché se facciamo delle presentazioni così mi fa piacere che vengano, perché sono i protagonisti del film e quindi li invito, quindi ci sentiamo, gli chiedo: ma allora cosa succede? La situazione sembra abbastanza statica, non succede granché, ci sono delle vaghe proposte che però è difficile, perché comunque tu il tuo dovere l'hai fatto, hai fatto una denuncia che non è giornalistica ma è artistica, diciamo. Sì, è una denuncia, una testimonianza se vuoi, e comunque secondo me è anche un fatto abbastanza simbolico, nel senso che, a parte, scusami, l'elemento in sé è comunque una modalità di comportamento, ecco, che lascia abbastanza. E tra l'altro c'è sempre questa radiolina all'interno del film, no? Con delle voci che escono, no? Che appunto mi ricordava questa situazione, no? Questa vecchia radio anni 70. Uno invece, un film da vedere stasera, io volevo ricordarlo perché ha a che fare con noi. Da si vedere stasera al Festival Cinema Festival. Ambiente, per chi fosse a Torino o volesse andarci, si chiama Google Baby. Hai 40 secondi per dirci cos'è un Google Baby o che cos'è una Google Baby. Se tu sei un occidentale, non decisamente, no, non hai bisogno di essere così ricco, ma vuoi un bambino e non puoi averlo per vari motivi, o aspetti, no, all'interno di quei processi di adozione, documenti, burocrazia, eccetera, oppure vai in India, in uno di quei luoghi in cui in realtà la maternità surrogata è diventato un business, perché ci sono intere cliniche con delle signore indiane che con bambini in affitto, anzi no. Corpi in affitto, senso, corpi in questo affitto, caso te li prendi e te li porti a casa poi i bambini. E questa è un'inchiesta, immagino, sarà un film inchiesta documentario di uno dei, tanto non credo che sia solo l'India il posto dove accadono queste cose, la legge le condanna, però ci sono, e questo è un dato di fatto, per cui sarà un po' da capire che se questo tipo di produzioni hanno poi delle ripercussioni, però no. Chi lo sa, però a me fa impressione che andando su Google immediatamente, no, trovi queste cose, come i viaggi per rifarti andando in Turchia, no? Le trovi immediatamente. I viaggi per i bambini. Nova Lab 24. Rieccoci in trasmissione 16:46, tra l'altro Google Baby c'è anche, sono indicazioni su internet, per cui insomma qualche spezzone lo si riesce a vedere anche da internet senza andare direttamente al festival. E insomma adesso cambiamo argomento, parliamo di donne, scienza e tecnologia, siamo in collegamento con l'amministratore delegato di Microsoft Italia, Pietro Scotti Iovane, buongiorno. Buongiorno. Anzi, buon pomeriggio, a presentarci un rapporto che insomma parla della cultura dell'innovazione, vero? Sì, è stato presentato questa mattina a Roma davanti al ministro Brunetta, e Cotec, CNR, Microsoft attraverso Futuro al Femminile e una serie di altri partner hanno voluto raccontare quanto il ruolo della donna nella vita familiare, così come nella vita aziendale, possa essere facilitato in qualche maniera attraverso una più ampia adozione di tecnologia. Ma io lo leggo perché abbiamo qui, insomma, abbiamo un po' sfogliato sia io che Cristina il rapporto. Insomma, il titolo forte è che l'82% degli italiani considera le tecnologie uno strumento per migliorare la qualità della vita delle donne. Sì, è come se la tecnologia avesse permesso alle donne di portarci a un equilibrio 50-50 uomini-donne nella vita reale. In realtà non siamo arrivati fin lì, e in realtà gli italiani hanno risposto a una serie di altre domande mostrando che le intenzioni potrebbero essere quelle, poi però quando si sceglie il corso universitario e si pensa alle materie scientifiche si preferisce suggerire a un figlio maschio di seguire quel tipo di corso e meno frequentemente la propria figlia femmina, oppure ancora si tiene che poi c'è un periodo della vita delle donne in cui fortunatamente la natura permette loro di avere figli che rappresenta un rallentatore di carriera all'interno dell'azienda, e questo viene fuori attraverso diverse prospettive. Allora può giocare un ruolo la tecnologia nel facilitare questi processi? Può la tecnologia diventare un elemento per rendere uguali le opportunità? Noi riteniamo di sì, e questo studio in qualche maniera ha cercato di intersecare questi dati. Però abbia pazienza, però è anche vero che insomma le tecnologie hanno una tripla, quadrupla, cioè hanno tante sfaccettature, per cui da un lato sono degli strumenti che aumentano la produttività, dall'altro sono anche strumenti che aumentano la schiavitù da un certo punto di vista. Lo dico perché insomma due settimane fa parlavo con uno psichiatra il quale mi raccontava di una donna di 64 anni o 65 anni che passava il giorno collegata a Facebook con un portatile che si portava. Beh, sono chiaramente fenomeni di dipendenza che poco hanno a che fare con la tecnologia, con il mezzo, ma molto con i contenuti. Però insomma, poi distinguerli diventa un po' un'operazione di lana caprina, o sbaglio? No, non c'è dubbio, è come tutti i fenomeni che cambiano la vita delle persone, e sicuramente la tecnologia, internet, il computer, il telefonino, sicuramente questo ruolo lo giocheranno nella vita delle persone. Bisogna prenderle in maniera completa, bisogna capire quali sono le implicazioni, chiedere agli esperti. Io penso per esempio ai bambini, non è vero che con la tecnologia la famiglia perde il ruolo o viene, se vogliamo, disintermediata dal computer. In realtà la famiglia gioca un ruolo ancora più importante, proprio perché il computer permette al bambino di spaziare, di poter vedere tante cose. Allora sì che ha proprio bisogno in quel momento del genitore per spiegare ciò che è sicuro da ciò che non è sicuro, così come un anziano, di evitare che passi il più tempo che ha a disposizione attaccato ad solo alcuni siti senza usare l'opportunità che internet mette a disposizione di ritornare a studiare, a guardare tante cose così interessanti. Insomma, sono temi importanti dove non basta il solo punto di vista, ma bisogna sicuramente farsi aiutare da chi è più esperto, da chi è più consapevole. E secondo me il ruolo degli operatori della tecnologia, o se vogliamo anche l'evento di stamattina, in qualche maniera portava proprio questo tipo di riflessione. Ecco, Pietro Scacciovane, tra l'altro giovane, che tra l'altro si è laureato nella nostra facoltà preferita, diciamo, l'Università di Pavia. Nella vostra? La nostra, esatto. Vostra, parli per lei. No, a me sta simpatico per quello, perché si è laureato alla mia università, cosa vuoi che ti dica? No, io stavo leggendo appunto qualcosa di questo rapporto del Kotek, e è interessante rispetto a quanto ha detto adesso l'amministratore delegato di Microsoft, perché dice, alla domanda di che cosa ti priveresti se dovessi rinunciare, no, per una settimana a contatto umano o a tecnologia, in realtà la maggior parte delle persone risponde, il 56%, rinuncerei a incontrare di persona un amico, il 23% rinuncerebbe a sentirli al telefono, e in realtà molto più facile privarsi di mail, sms, il 5%, o di social network, 3,6%. Unito al fatto che in realtà ieri leggevo questa informazione, cioè la maggior parte dei quiz, dei test, delle stupidaggini che si fanno sui social network le fanno le donne, no? Mi domandavo... Hai messo assieme le due cose. No, siamo circondati in realtà dalla tecnologia, e quindi difficile trovare, come dire, un contatto umano sempre di più, e quindi è vero che non bisogna demonizzare, però alla fine il rapporto Kotek dice, chiede alle persone, ma tu a cosa rinunceresti? E le persone dicono, beh, ma io rinuncerei a vedere di persona altre persone. Allora forse un piccolo problema c'è, no? Io in realtà ritengo che non esisterebbe un'amicizia virtuale, e in realtà non esiste un'amicizia virtuale lì dove non ci sono dei rapporti umani sottostanti, almeno in massa critica funziona così. È vero poi che c'è una tendenza, se vogliamo, a moltiplicare i contatti online rispetto a quelli che si hanno nella vita normale, ma non esiste la possibilità di un'amicizia online se non si hanno i sentimenti, se non si ha il desiderio di conoscere le persone dal vero. E infatti è vero che consuma più tecnologia in questi ultimi anni, ma non mi sembra che le città siano vuote, non mi sembra che le strade siano vuote, la gente continua a frequentarsi, i locali sono pieni. Ma sono d'accordo con lei, nel senso, detto questo, è uno strumento che va analizzato con molta attenzione, e sicuramente le persone tenderanno a crearsi dei mondi, delle relazioni virtuali. Però sono d'accordo con lei che di fatto le città non vivremo collegati a degli schermi, ecco, almeno questa è anche la nostra auspicio, la nostra speranza. Io ringrazio l'amministratore delegato di Microsoft Italia, ringrazio Brezza, il regista, ricordiamo Casa Verde domani a Torino al Festival 20:15. Tagliabue. Ciao a tutti, a domani. Nova Lab 24. Nova Lab 24.